Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Gigni tautem artificiosam lusorum gentem cella silvestris, dice l'antico adagio a proposito della celebre scuola di Waldzell. Tra le scuole castalie del secondo e terzo grado era la più vicina all'arte, mentre in altre scuole dominava espressamente una determinata scienza, come per esempio a Köpenheim la filologia classica, a Porta la dottrina aristotelica e scolastica, a Planvaste la matematica, a Waldzell invece si coltivava per tradizione una tendenza all'universalismo, all'affratellamento fra scienze e arti, e il simbolo supremo di tale tendenza era il gioco delle perle di vetro. Là si trovava la celebre palestra per i giochi solenni, là l'immenso archivio del gioco con i suoi funzionari e le sue biblioteche, là la residenza del Ludi Magister. Tutto sommato, il trasferimento a Waldzell rappresentava una certa distinzione. Anche Josef Knecht lo sapeva e, sebbene non fosse ambizioso in senso volgare, accolse però questa distinzione con gioia e con orgoglio. Arrivò dunque a Waldzell dopo una marcia a piedi con alcuni compagni. Scese lungo il viale dei Tigli, passando davanti al cimitero, vide e riconobbe, dentro le alte siepi, il Vicus Lusorum, la piccola appartata città dei giocatori di perle. La scuola non era che la continuazione della precedente, anche se vi erano aggiunte alcune materie nuove. Di veramente nuovo non c'erano che gli esercizi di meditazione, e anche di questi il Magister Musiche gli aveva già dato un saggio. Preside della scuola di Waldzell era un uomo originale e un po' temuto, di nome Otto Zbinden, che allora aveva circa 60 anni. Esistono parecchie registrazioni nella sua bella e appassionata scrittura sull'allievo Josef Knecht, delle quali abbiamo potuto prendere visione. Ma sul principio la curiosità del giovane fu attratta più dai compagni che dagli insegnanti. Sappiamo che ebbe specialmente rapporti vivaci e variamente documentati con due di loro. Il primo, al quale si legò già nei primi mesi, un certo Carlo Ferromonte, che in seguito, come sostituto del maestro di musica, salì fino al penultimo grado della gerarchia, era coetaneo di Knecht. Per un po' parve che Knecht avesse deciso di diventare soltanto musicista. Trascurò in favore della musica tutte le materie facoltative, tra queste la prima introduzione al gioco delle perle, a tal segno che verso la fine del primo semestre il preside gliene chiese conto. L'allievo Knecht non si lasciò intimorire e propugnò ostinatamente il punto di vista dei diritti degli allievi. E avrebbe detto al preside: «Se in una materia ufficiale non rendo, lei è in diritto di rimproverarmi. Io però non gliene ho offerto il motivo. Per contro sono nel mio diritto se dedico alla musica 3/4 o magari 4/4 del tempo a mia disposizione. Mi appello agli statuti». Il preside fu abbastanza savio per non insistere, ma naturalmente prese nota dell'allievo e, a quanto sembra, lo trattò per molto tempo con freddezza e severità. Questo singolare periodo della vita di Knecht durò più di un anno, forse anche un anno e mezzo. Pagelle normali ma non brillanti, una pacata e, a quanto pare, dopo l'incidente col preside, piuttosto fiera ritrosia, nessuna amicizia stretta, ma in compenso un insolito appassionato zelo nel far musica. L'abbandono di quasi tutte le materie private, anche del gioco delle perle. Senza dubbio, alcuni tratti di questo quadro giovanile sono caratteristici della pubertà. Probabilmente Knecht, in quel periodo, incontrò l'altro sesso soltanto per caso e con animo diffidente, e al pari di molti allievi di Hirschholz, i quali non avevano sorelle in casa, deve essere stato molto timido. Leggeva molto, specialmente filosofi tedeschi, Leibniz, Kant e i romantici, tra i quali lo attraeva specialmente Hegel. Ora dobbiamo occuparci un poco di quell'altro compagno che nella vita di Knecht a Waldzell ebbe una parte determinante, cioè del privatista Plinio De Signori. Essendo privatista, frequentava le scuole scelte come ospite, senza intenzione di fermarsi nella provincia pedagogica e di entrare nell'ordine. Era giovane, di doti cospicue, bravo specialmente nel discorrere e discutere, individuo focoso e un po' irrequieto, che dava molto da pensare al preside perché, come allievo, si comportava bene e non si faceva rimproverare, tuttavia non teneva affatto a dimenticare la sua situazione eccezionale di privatista e ad aggregarsi senza dare nell'occhio, ma professava con franchezza e con animo battagliero la sua mentalità mondana e poco castalia. Inevitabilmente sorse fra i due allievi una relazione singolare. Entrambi erano molto intelligenti e compresi della loro vocazione. Ciò li affratellava, mentre in tutto il resto erano agli antipodi. L'intima storia dell'amicizia e inimicizia fra Joseph e Plinio, ossia di questa musica su due temi o di questo gioco dialettico fra due spiriti, si svolse all'incirca nel modo seguente. Da principio fu naturalmente De Signori a dare nell'occhio alla controparte e ad attirarla a sé. Egli era non soltanto il più anziano e un giovane bello, ardente e loquace, ma soprattutto era uno di fuori, un non castalio, uno del mondo, un uomo con padre e madre, con zii, zie e fratelli, uno per il quale la Castalia, con tutte le sue leggi, le sue tradizioni e gli ideali, significava soltanto una tappa, un tratto di strada, un soggiorno limitato nel tempo. Ora Plinio non faceva davvero alcun mistero della sua appartenenza al mondo, non se ne vergognava affatto, ne era anzi orgoglioso. Con uno zelo in parte ancora infantile e teatrale, in parte già consapevole e programmatico, metteva in rilievo il suo essere diverso e approfittava di ogni occasione per contrapporre le sue norme e concezioni mondane alle castalie e presentarle come migliori, più giuste, più naturali, più umane. Non poteva non arrivare, e arrivò infatti, il momento in cui De Signori si accorse di avere tra gli ascoltatori uno che, nelle sue parole, trovava più che un divertimento eccitante, o sia pure scandaloso, più che la soddisfazione della voglia di discutere, un ragazzo biondo e taciturno, dall'aspetto leggiadro e fine, ma un po' timido, che arrossiva e dava risposte concise e impacciate ogni qualvolta si sentiva rivolgere la parola. Quel contegno aveva le sue ragioni. Joseph si era avveduto che l'altro poteva dargli qualcosa di importante, forse anche di bello, un allargamento di orizzonti, una esperienza, una spiegazione, forse anche una tentazione e un pericolo. In ogni caso, qualcosa che bisognava affrontare. Joseph si rivolse al suo protettore e indirizzò al Magister Musiche una lunga lettera che è ancora conservata. Vi scriveva fra l'altro: «Non ho ancora compreso se Plinio spera di trovare in me un compagno di fede o soltanto un interlocutore. Spero in questa seconda alternativa perché convertirmi alle sue concezioni significherebbe indurmi a infedeltà e a distruggere la mia vita che ha ormai radici nella Castalia. Io non ho fuori né genitori né amici dai quali possa ritornare se mi venisse davvero questo desiderio. Ma se anche i discorsi rispettosi di Plinio non mirano affatto a una conversione e influenza, io mi trovo davanti ad essi in imbarazzo. Forse, reverendissimo, ho abusato della sua gentilezza e bontà, ma ho estremo bisogno di un consiglio. Per un poco posso ancora sostenere l'attuale situazione. Non posso invece portarla a sviluppi veri e fecondi, poiché mi sento troppo debole e inesperto. E ciò che è forse peggio, non posso confidarmi col direttore della nostra scuola, a meno che lei me lo ordini espressamente. L'ho incomodata al fine di esporle la cosa che per me incomincia a diventare una grave angustia». Poco tempo dopo la lettera di Knecht, lo stesso Magister Musiche arrivò a Waldzell per presiedere a un esame di musica e durante quel soggiorno si occupò cordialmente del suo giovane amico. Ne siamo informati da successive comunicazioni di Knecht. Ora, la parte toccata a Knecht determinò la sua vita per parecchio tempo. Gli fu permesso di coltivare l'amicizia con dei signori, di accettare il suo influsso e i suoi attacchi senza che i maestri vi si immischiassero o lo sorvegliassero. Ma il compito assegnatogli dal mentore fu di difendere la Castalia contro i suoi critici e di portare al più alto livello la discussione dei vari concetti. Ciò significava, tra l'altro, che Josef doveva far suoi i fondamenti del regolamento in vigore in Castalia e nell'ordine e tenerli sempre presenti. I ludi oratori fra i due avversi amici divennero presto celebri e suscitarono una grande smania di assistervi. Il tono ironico e aggressivo di De Signori divenne più raffinato, le sue definizioni più rigorose e responsabili, la sua critica più oggettiva. Plinio era stato fino allora il favorito in questa gara. Veniva dal mondo, ne aveva l'esperienza, i metodi, i mezzi d'assalto e anche un po' la leggerezza. Dalle conversazioni con gli adulti, in casa sua, aveva anche appreso tutte le obiezioni che il mondo faceva alla Castalia. Ora, le repliche di Knecht lo costrinsero ad ammettere che conosceva il mondo molto bene, meglio di chiunque in Castalia, ma non conosceva la Castalia e il suo spirito così bene come quelli che vi soggiornavano e ne condividevano la sorte. Imparò a capire e a poco anche a riconoscere che vi era ospite e non indigeno e che non solo là fuori, ma anche qui nella provincia pedagogica, esistevano esperienze secolari e cose ovvie, nonché una tradizione e persino una natura che egli conosceva soltanto in parte e che ora, tramite il suo portavoce, Josef Knecht, pretendeva di essere rispettata. Knecht, invece, per non venir meno alla sua parte di apologeta, era costretto a impadronirsi sempre più intimamente e coscientemente, mediante lo studio, la meditazione e la disciplina, di ciò che doveva difendere. Se questa relazione aveva trovato una forma dignitosa, anzi era diventata per i partecipanti alla disputa e per l'uditorio un elemento indispensabile della vita scolastica di quel tempo a Waldzell, non si può dire che le difficoltà e il conflitto fossero diventati meno gravi per Knecht. Una volta, una delle rare visite del maestro di musica cadde in un periodo in cui Josef, affaticato e strapazzato dal suo compito, trovava difficoltà a mantenere l'equilibrio. Il maestro lo dedusse da qualche accenno del giovane, ma più chiaramente lo rilevò dal suo aspetto stanco e sciupato, dagli sguardi irrequieti, dall'aria un po' distratta. Gli fece alcune domande per esplorare la situazione. Trovò inibizioni e svogliatezze. Smise di chiedere e, seriamente preoccupato, lo portò in un'aula col pretesto di metterlo al corrente d'una piccola scoperta musicologica. Lo mandò a prendere il clavicordo, glielo fece accordare, poi lo avviluppò in una discussione sull'origine della sonata, fin tanto che l'allievo poté dimenticare le sue angosce e, abbandonandosi, stette ad ascoltare con gratitudine le parole di lui e la musica. Con molta pazienza lasciò che il tempo lo portasse a quella disposizione e apertura di mente della quale aveva notato la mancanza. Quando infine vi riuscì, quando ebbe terminato la lezione ed eseguito una delle sonate di Gabrieli, si alzò, si mise a passeggiare lentamente per la stanzetta e spiegò. Quanto più pretendiamo da noi, o quanto più il nostro compito pretende da noi di volta in volta, tanto più dobbiamo fare assegnamento su quella fonte di energia che è la meditazione, sul sempre rinnovato accordo dello spirito e dell'anima. I veri grandi della storia universale o sapevano meditare, o conoscevano, sia pure inconsapevolmente, la via per giungere là dove ci porta la meditazione. Gli altri uomini, anche i più intelligenti e robusti, hanno finito col naufragare e soccombere perché il loro compito o il loro sogno ambizioso era giunto a dominarli, li ossessionava a tal punto da renderli incapaci di staccarsi dall'attualità. Bene, sono tutte cose che sai e che si imparano coi primi esercizi. E sono inesorabilmente vere. Quanto siano vere, si vede soltanto allorché si è smarrita la via. Nei 2 o 3 anni di Waldzell, al tempo della battagliera amicizia tra Plinio e Josef, la scuola ne visse lo spettacolo come un dramma al quale ciascuno aveva parte, dal preside fino al più giovane allievo. I due mondi, i due principi, erano impersonati in Knecht e De Signori. Ognuno dei due potenziava l'altro. Ciascuna disputa diventava una gara solenne e rappresentativa che riguardava tutti. E come Plinio da ogni vacanza, da ogni contatto col suolo materno, portava con sé nuove energie, così Josef succhiava forze novelle da ogni riflessione, da ogni lettura, dagli esercizi di concentrazione, dagli incontri col Magister Musiche, e diventava sempre più adatto a rappresentare e a difendere la Castalia. A suo tempo, ancora fanciullo, aveva sentito la prima chiamata. Ora sentiva la seconda, e quegli anni fecero di lui la figura perfetta del cittadino di Castalia. Da tempo aveva anche assorbito i primi insegnamenti nel gioco delle perle e già allora, nelle vacanze e sotto il controllo di uno dei dirigenti, incominciava ad abbozzare propri giochi di perle. E qui scoperse una delle più generose fonti di gioia e di riposo interiore. Dopo le sue insaziabili esercitazioni al cembalo e al clavicordo, insieme con Carlo Ferromonte, nessuna cosa gli aveva fatto tanto bene. Lo aveva talmente rinfrescato, irrobustito, confortato e rallegrato quanto queste prime avanzate nel mondo stellare del gioco delle perle di vetro. Va ricordato che, sotto l'influsso del suo antagonista, anche Plinio De Signori subì notevoli sviluppi e metamorfosi, e non solo come avvio a purificare i suoi metodi di lotta. Nel suo ultimo anno di scuola, dopo 2 ore di discussione sugli ideali della vita claustrale e i suoi pericoli, affrontata alla presenza della classe superiore del gioco delle perle, Plinio accompagnò Josef a una passeggiata e gli fece una confessione che riportiamo secondo una lettera di Ferromonte. «Josef, so naturalmente da un pezzo che non sei quel giocatore di perle al 100% e quel santo della provincia del quale reciti così bene la parte. Ciascuno di noi è impegnato in una battaglia in un punto molto esposto e ciascuno di noi sa benissimo che l'obiettivo contro il quale combatte esiste a buon diritto e possiede i suoi incontestati valori. Tu sei dalla parte dell'alta cultura dello spirito, Io dalla parte della vita naturale. Ti voglio confessare che provo un amore folle per la vostra gerarchia, la quale spesso mi entusiasma e mi alletta come la felicità stessa. Ti confesserò pure che mesi fa, quando passai alcuni giorni in casa dei miei genitori, ho sostenuto una discussione con mio padre ottenendo il permesso di rimanere in Castalia e di entrare nell'ordine qualora questo dovesse essere il mio desiderio alla fine del periodo scolastico. E fui veramente felice quando mi diede il suo consenso. Ebbene, non ne usufruirò, lo so da poco tempo. Non che ne abbia perduto la voglia, ma vedo sempre meglio che il soffermarmi tra voi sarebbe una fuga. Fuga a modo e nobile, ma pur sempre fuga. Ritornerò invece e diventerò un uomo di mondo, il quale però resterà grato alla vostra Castalia, continuerà a fare parecchie delle vostre esercitazioni e ogni anno celebrerà insieme con voi il grande gioco delle perle. Quando, al termine del corso quadriennale, Plinio fu sul punto di ritornare a casa, portò al preside una lettera di suo padre che invitava Josef Knecht a passare con lui le vacanze. Era un'idea fuori dell'ordinario. Il preside, visto che l'invito veniva da una casa e da un uomo così stimati, lo ritenne abbastanza importante per non respingerlo senz'altro. Lo presentò invece al comitato dell'autorità pedagogica, il quale rispose subito con un laconico no. I due amici dovettero quindi accomiatarsi. «Ritenteremo in seguito», disse Plinio. «Un giorno l'invito sarà accettato. È necessario che tu veda la mia casa paterna e conosca i miei e sappia che anche noi siamo uomini e non soltanto una masnada di mondani e affaristi. Sentirò molto la tua mancanza. E ora, Josef, cerca di tirarti su presto in questa complicata Castalia. Tu sei molto adatto a far parte di questa gerarchia, ma a mio parere dovresti essere più padrone che servo, nonostante il tuo nome. Ti predico un grande avvenire. Un giorno sarai magister ed entrerai nel numero dei serenissimi». Dopo una stretta di mano, Plinio partì. Nel suo ultimo anno a Walzel, Josef fu circondato da un profondo silenzio. La sua funzione, esposta e faticosa, di personalità in certo qual modo pubblica, fu troncata improvvisamente. La Castalia non aveva più bisogno di un difensore. Daniela Di Giusto ha letto Il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse, riduzione di Giovanni Piccioni, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.